Si è scoperto che l'espansione accelera, per esempio, e non sappiamo... È molto aspra sui rapporti tra la scienza e la società. Da poco tempo fa le applicazioni della scienza... Il gas è lo stato più semplice in cui si trova la materia. La libertà di poterlo ridistribuire e modificare. La cultura scientifica, vuol dire, è qualcosa di immenso. Caccia al fotone, l'intrattenimento scientifico di Radio Città Fujiko. E sono le 10.32 di questo sabato 8 novembre 2008 e benvenuti ad un'altra puntata di Caccia al fotone. (33) 180 94 94 per inviare un sms e cacciafotone at radiocittafujiko.it per inviare una mail. Un saluto a tutti coloro che stanno ascoltando la trasmissione in diretta questo sabato e un saluto a tutti coloro che stanno ascoltando la replica del mercoledì. Beh, oggi parleremo di un argomento un po' particolare, parleremo di scienza e TV. E avremo come ospite Antonio in arte Pilo. Buongiorno Antonio. Buongiorno a tutti. E oggi parleremo di The Big Bang Theory, che non è, come potete pensare, la teoria sull'espansione dell'universo, ma un film in onda da quasi un anno sulla CBS. Antonio, hai 100 parole iniziali per descrivere The Big Bang Theory. The Big Bang Theory è una serie TV americana che va in onda sul canale CBS il lunedì sera. È stata ideata da Chuck Lorre e Bill Prady e narra delle vicende di due giovani fisici la cui vita viene sconvolta dal trasloco sul loro pianerottolo di una nuova vicina, una ragazza bionda molto carina che all'apparenza nella prima puntata ci viene presentata anche come poco intelligente. Esatto, come dice Wikipedia, dalla dubbia intelligenza. Sì, esatto. Beh, di questo e di molto altro ne parleremo nel prosieguo della trasmissione. Ma ora andiamo ad ascoltarci una canzone degli Houdini Roadshow, una rock band tedesca che è viva dal 2005 e questa canzone si intitola Easy. Nothing, baby. With a badass walk, I know you just know the tone. You're a hell of a ride, and it's gonna be an all-night fight. You could have been one, cause you're hard as the sun. You could do like a young witch, but I don't know you nothing, baby. got me going, baby. E bentornati in studio. Quest'oggi si parla di The Big Bang Theory. In studio con noi Antonio in arte Pilo, che è uno dei traduttori per Italian Subs Addicted. E questa serie televisiva, una serie che fondamentalmente parla di scienza, ha una sigla. E poi ce l'andiamo ad ascoltare. State that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey! Tutto in inglese, Antonio. Che cosa vuol dire questa sigla? Innanzitutto bisogna dire che è una canzone degli Bare Naked Ladies, e quindi parla sempre dell'evoluzione dell'uomo attraverso la storia. Il testo preso per la sigla di Big Bang Theory è quello della prima strofa, è una traduzione, potrebbe essere: il nostro universo era in uno stato caldo e denso, 14 milioni di anni fa iniziò ad esplodere. La Terra si raffreddò, cominciò la fotosintesi, l'uomo di Neanderthal cominciò a costruire i primi utensili, l'umanità ha costruito, dice, un muro che sarebbe la muraglia cinese, ha costruito le piramidi, la storia, i misteri, la scienza e tutto ciò, eccetera, che risolve il mistero. Poi la cosa bella è che durante questa sigla appaiono varie immagini, non lo so, di Newton oppure di Kepler, o immagini di Darwin, insomma una sigla per narrare l'evoluzione della scienza almeno in 3-4 secondi. Sì, è tutto per far capire che tutto quello che ha fatto l'uomo nella sua storia in realtà è nato solo grazie al Big Bang. Senti, i personaggi principali di questa storia fondamentalmente sono tre. Il primo è Leonard, che è un nerd mascherato che studia la teoria delle stringhe, che è una teoria di cui abbiamo parlato moltissimo qua a Caccia al Fotone. Il secondo è Sheldon, che è un nerd assoluto secondo me. Il terzo personaggio è Penny, questa ragazzina un po' svampita, un po' dalla dubbia intelligenza, come cita Wikipedia, che manda in palla questi due amici che abitano sullo stesso pianerottolo. Tu quali preferisci di questi personaggi? Considerando anche il fatto che ci sono anche molti altri personaggi comprimari. Beh, sicuramente il mio preferito, e credo quello della maggior parte di quelli che guardano Big Bang Theory, è Sheldon. Sheldon studia, appunto, no, studia, è laureato già in fisica. A 14 anni? Sì, a 14 anni aveva già il dottorato, si era laureato a 11 anni, quindi è proprio un genio. Però questo fatto di essere cresciuto in fretta, di essersi trovato subito a contatto con il lavoro, lo ha portato però a non saper rapportarsi nella vita quotidiana con le altre persone. Lui fondamentalmente si sente superiore alle altre persone proprio per la sua intelligenza. E non lo maschera per niente. Non lo maschera, no, lui si definisce il passo successivo dell'evoluzione umana. Lui non capisce tipo il sarcasmo, a differenza del suo amico Leonard, che invece è molto sarcastico, quindi ogni tanto si ritrova a puntualizzare qualsiasi cosa dicono gli altri, anche se pur sapendo che gli altri l'hanno detta per scherzo. Senti, tu come lo vedi questo incrocio assolutamente improbabile fra una persona che vive la vita normale, che lavora alla Cheesecake Factory, invece questi due nerd assoluti che studiano la teoria delle stringhe, che è una delle teorie più complicate da studiare in matematica, non tanto in fisica, ma proprio in matematica? Diciamo che il modo in cui i due hanno di rapportarsi con Penny è quasi opposto, perché Leonard, appunto, come tu l'hai definito, un nerd mascherato, pur essendo il solito nerd, quindi appassionato di fumetti, Star Wars, però un po' si vergogna all'esterno di questo suo aspetto. Vogliamo dire allora, che shampoo e che bagno schiuma usa? Lui ha lo shampoo di Dark Father e il balsamo di Luke Skywalker. Assolutamente pazzo, andiamo avanti. Quindi, come dicevo, tenta di mascherare, quindi proprio per questa sua voglia di interagire con le altre persone normalmente, come fanno tutti. Lui si prende subito una cotta per Penny sin dalla prima volta che la vede sul pianerottolo di casa. E dice che i suoi figli saranno belli e intelligenti. E anche qui Sheldon puntualizzerà sempre col fatto che non è scientificamente dimostrato che i geni di una persona intelligente produrranno un'altra persona intelligente. Senti, l'incontro fra queste due personalità, più la personalità di Penny, vengono a incrociarsi su questo pianerottolo in un momento particolare. Adesso te lo faccio sentire. Guess I'm your new neighbor, Penny. Oh, Leonard, Sheldon. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Oh, welcome to the building. Oh, thank you. Maybe we can have coffee sometime. Oh, great. Great. Great. Great. Beh, se cominciamo a descriverla, c'è il momento in cui Penny entra nel suo appartamento. Sheldon e Leonard attraversano le scale, arrivano direttamente sulla porta accanto, trovano questa bellissima ragazza che ascolta una canzone assolutamente indie. Sì, da questo pezzo vediamo subito le difficoltà dei tre personaggi a dialogare. Ai ai ai, grit grit grit, che non sanno proprio cosa dire. Penny si trasferisce nel condominio di Sheldon e Leonard perché si è appena lasciata col suo ragazzo. Ed è... cosa che farà molto spesso durante le serie. Sì, ed è stata praticamente cacciata di casa, quindi è stata costretta a trasferirsi. E in questa prima puntata subito chiederà un favore a Sheldon e a Leonard. Leonard dirà subito di sì, anche se i due non sanno assolutamente cosa fare. Lei praticamente gli chiede di andare a riprendere la TV a casa dell'ex fidanzato perché dice di volere l'affidamento della televisione, perché l'hanno comprata insieme. I due provano ad andare a casa del fidanzato, però il fidanzato non la prende benissimo, praticamente li fa tornare a casa in mutande. E c'è una scena divertentissima in cui loro non sanno come entrare dentro la porta dell'appartamento. Citano il loro QI per dire abbiamo un QI molto alto, quindi riusciremo a entrare all'interno dell'appartamento. Poi arrivano due ragazzine che premono tutti i campanelli dell'appartamento, qualcuno apre e le due ragazzine entrano, ed entrano anche loro. Quindi questo è un po' per smitizzare il fatto che avere un alto QI non vuol dire essere intelligenti o trovare delle cose geniali, però vuol dire fondamentalmente avere solamente un alto QI, che è una rappresentazione di una parte del cervello, quindi il QI matematico. Sì, loro praticamente sfruttano tutta la loro intelligenza nelle loro ricerche, però quando si tratta di vita quotidiana non sanno proprio come fare, cioè si perdono davanti ai problemi più semplici della vita quotidiana. Quante serie scientifiche ci sono in giro in questo momento? Beh, serie scientifiche ce ne sono molte. Il capostipite è stato sicuramente CSI, ma anche le varie serie mediche tipo ER, Dr. House. Però quelle che secondo me si avvicinano di più a The Big Bang Theory sono Numbers. Esatto, sì. E anche questa è una serie crime in realtà, quindi loro sono due fratelli, un poliziotto e un matematico. Praticamente il fratello matematico, quello intelligente, diciamo, aiuta il fratello poliziotto a risolvere i casi grazie a teoremi matematici. L'altra invece è The IT Crowd, che è una serie british invece. Si avvicina molto, non come comicità, diciamo, perché comunque la comicità british è molto diversa da quella americana, però come storia, perché abbiamo questi due nerd che lavorano in una grande multinazionale nel reparto IT, che sono quelli che diciamo sotto vanno scala. Sì, nel seminterrato di questo enorme grattacielo. E loro sono quelli che gli altri impiegati chiamano quando hanno problemi col computer. Loro fondamentalmente sono molto pigri, infatti. Come tutti i nerd, peraltro. Sì, soprattutto si annoiano quando gli altri impiegati gli chiamano per dire che hanno problemi al PC. Perché da una statistica che hanno fatto loro, più del 90% dei problemi si può risolvere con due risposte. Con due risposte. Ha provato a riavviare il computer e ha visto se la presa è attaccata nella corrente. Risolve il 90% di queste domande, risolve i loro problemi. E anche lì la loro vita cambia, la loro vita lavorativa, quando a capo di questo settore IT viene mandata una donna, anche qui bella e bionda, una donna che non ci capisce nulla di computer, che ha mentito sul suo curriculum per avere il posto assunto di lavoro, sì. Loro se ne accorgono subito, fanno un patto con questa donna. Loro non diranno niente al capo, per così lei non verrà licenziata e lei gli aiuterà nella vita quotidiana, con gli rapporti interpersonali, con gli altri, con le persone comuni. Sì, gli aiuterà a migliorare sotto questo aspetto. Quella che stiamo ascoltando è Snake Pit. Bentornati a Caccia al Fotone, l'intrattenimento scientifico di Radio Città Fujiko. Oggi si parla di The Big Bang Theory. E al telefono abbiamo Super Simo. Buongiorno Super Simo. Buongiorno, ciao Fabio. Simone, ti faccio sentire un pezzo del film in cui si parla di un effetto particolare. Hey, what's Sheldon supposed to be? Oh, he's the Doppler effect. Yes. It's the apparent change in the frequency of a wave caused by relative motion between the source of the wave and the observer. Oh, sure, I see it now, the Doppler effect. Simone, allora, la prima cosa che si vede è la velocità con cui spiega l'effetto Doppler. Ci puoi spiegare un attimo che cos'è l'effetto Doppler? Prima di tutto presenta di chi sei, allora, e che ruolo hai all'interno di Italian Subs Addicted? Allora, ciao, io sono Super Simo e traduco Italian Subs da più o meno quasi 3 anni e sono stato appunto uno dei primi che entra nel team di questo telefilm che è appunto Big Bang Theory, che è, diciamo appunto, un po' la parodia dei nerd americani, cioè in pratica tutti quelli che vivono fondamentalmente di scienza. E appunto, diciamo che in questo breve spezzone quello che viene elencato è appunto l'effetto Doppler, che, diciamo, per dire intuitivamente, è il classico effetto che si vede quando ci troviamo per esempio in presenza di un'ambulanza che passa, cioè il motivo per cui noi vediamo prima l'ambulanza, che in lontananza da noi ha una frequenza molto più bassa, mentre invece appena si avvicina il suono è molto più acuto. E appunto questo effetto Doppler, che deriva dal fatto che in pratica le onde acustiche quando viaggiano tendono appunto ad incontrarsi e quindi tendono a una frequenza più alta di quella che in realtà è quella effettiva. Senti, il quadro di questa spiegazione dell'effetto Doppler avviene in un momento particolare in cui c'è una serata Halloween. Ce la vuoi descrivere un attimo? Perché è veramente curioso, in cui prima di tutto loro cercano di vestirsi tutti allo stesso modo, si vestono da flash, sì, e poi in pratica succede che appunto tutti quanti si vestono da flash e quindi decidono in pratica per un costume, tutti quanti hanno il costume di ricambio, come se fosse una cosa normale appunto. E mentre appunto c'è chi si veste da Thor, chi si veste da Peter Pan, c'è Sheldon che diciamo un po' più il nerd fra tutti quanti, che appunto si veste da questa maglietta diciamo a sfondo nero con tante righe ravvicinate, e chiaramente i suoi compagni comunque abbastanza lo capiscono, e questo è l'effetto Doppler. Quando invece cerca di spiegarlo a Penny, che comunque è la vicina di casa, quella un po' più diciamo persona normale tra virgolette, lei insomma cerca di capire che cos'è, però lui appunto glielo spiega già appunto il tema in sé è complicato, glielo spiega una velocità doppia e quindi comunque lei non capisce. Allora quando comunque cerca, è comico quando cerca di spiegarlo ai vari invitati alla festa, che in pratica tutti quanti dicono insomma da cosa è vestito, lui fa guarda un indizio e fa gnium. Allora tutti quanti dicono ah ok, lo sei vestito da trenino, e lui fa quasi. E questo appunto è abbastanza un po' comico, perché peraltro il vestito che aveva era un vestito a righe bianco-nere, molte l'hanno confuso con un vestito da zebra. Sì, infatti a un certo punto appunto c'è l'amico un po' più diciamo più integrato nella società, che è Sheldon, e Leonard, che infatti a un certo punto dice guarda senti facciamo così, tagliamo la corte, diglielo che sei vestito da zebra, e in realtà invece lui è vestito da questo amico vestito da hobbit. Allora gli fa no scusa, perché dovresti essere vestito da zebra, a questo punto di che sei vestito da elfo, facciamo la finita. Fa ma no, ma io sono un hobbit, allora io sono l'effetto Doppler, e continua così insomma, cioè Sheldon vive un po' in un mondo tutto suo, ecco. Senti, dimmi la verità, quanto ti sei divertito a tradurre questa serie? Guarda, io immensamente, cioè io direttamente dal pilot, dalla prima puntata, mi sono direttamente innamorato, perché cioè non puoi non innamorarti del personaggio di Sheldon, ma anche di Leonard, però cioè io che sono addetto a lavori penso che è una delle serie più belle che possa esistere. Super Simo, in bocca al lupo. Prima di tutto, come ti chiami esattamente? Simone? Sì, Simone. Simone, ok. Quindi quando leggiamo i sottotitoli, leggiamo Super Simo, sappiamo che sei Simone. Sì, sono Simone. Che cosa fai nella vita? Guarda, sono al primo anno della specialistica in fisica e speriamo appunto di finire. C'è un po' di trambusta all'università, però speriamo che vada tutto bene. Allora Simone, in bocca al lupo e resta in ascolto di Calcio al Fotone, perché abbiamo i prossimi 10 minuti per parlare ancora di The Big Bang Theory. Grazie ancora. Grazie a voi. Ciao. Senti, un confronto fra la prima e la seconda serie, e sono calati secondo te i riferimenti scientifici, i riferimenti tra virgolette culturali, oppure stiamo migliorando? Tra la prima e la seconda serie forse sono un po' diminuiti i riferimenti scientifici, però si è alzato sicuramente il livello di comicità, e questo in America è stato molto apprezzato, infatti gli ascolti sono saliti abbastanza rispetto alla prima stagione. La prima stagione aveva una media di ascolti di 8 milioni e 300 mila spettatori, mentre questa seconda stagione viaggia su 9 milioni più o meno, qualcosa di più anche. Questa serie è stata poi tradotta, almeno la prima delle due serie è stata tradotta in Italia da Still. Dimmi sinceramente, tu l'hai vista tutte e due? Come ti sembra il confronto? Guarda, io ho visto per curiosità soltanto la prima puntata in italiano, e devo dire che secondo me quando passerà in chiaro non avrà molto successo, perché la traduzione è molto superficiale ed è stata molto appiattita, soprattutto i personaggi. Sheldon col suo modo di parlare è stato completamente stravolto. Un esempio che posso fare della prima puntata: Penny diciamo invita Sheldon e Leonard per ricambiare diciamo il favore di essere andati dal suo ex fidanzato, stanno discutendo su cosa mangiare e Sheldon dice non posso mangiare nello stesso giorno pranzo e cena, cucina indiana e Thai, perché sono entrambe a base di curry. E lui nella versione originale dice letteralmente perché sarebbe gastronomicamente ridondante. Esatto. Quindi usa un termine scientifico. Mentre nella traduzione italiano hanno messo una cosa del tipo mi verrebbe la kerrite, che sarebbe nessuna... in teoria dovrebbe essere una malattia provocata dal curry, che non esiste, e Sheldon, essendo lui proprio un precisino, così non direbbe mai un'esattezza del genere. Incredibile. Senti, a me è colpito invece un punto in cui Penny prova a spiegare il fatto che lei è del Sagittario e pertanto essere del Sagittario potrebbe dire di lei molte più cose di quante lei potrebbe spiegare. E allora, in inglese suona così. Me? Ok. I'm a Sagittarius. probably tells you way more than you need to know. Yes, it tells us that you participate in the mass cultural delusion that the sun's apparent position relative to arbitrarily defined constellations at the time of your birth somehow affects your personality. Participate in the what? Invece in italiano fa così. Sono del Sagittario e probabilmente questa notizia completa il quadro. Oh sì, sei una ragazza partecipe della delusione generalizzata circa il fatto che la posizione del Sole rispetto a ben definite costellazioni in qualche modo abbia avuto influenza sulla tua nascita. Partecipa alla nascita di chi? Qual è la grossa differenza fra questi due file? Beh, innanzitutto la frase di Penny. Vabbè, a parte le voci che sono completamente diverse, per niente azzeccate. Però è già la prima frase di Penny che dice sono il Sagittario, e questo vi potrà dire molto di più di quello che potrei spiegarvi io. Per lei essere il Sagittario indica una persona, il carattere di una persona perfettamente, mentre per Sheldon, che è un fisico, uno scienziato, una persona razionale, sì, infatti lui dice, cioè, sei una di quelle persone che è convinta che la posizione dei pianeti il giorno della tua nascita possa influenzare la tua vita. Poi in italiano non ho reso, credo, possa influenzare la tua nascita. Vabbè, a nostra volta anche questo. Però forse l'errore più grave lo fanno nella parte successiva a questa, in cui gli chiedono altro e lei risponde sono vegetariana, però ogni tanto mangio pesce e adoro le bistecche. E questo, cioè, e questo in inglese fa ridere, perché comunque uno che prima dice di essere vegetariano e dopo due secondi dice adoro le bistecche, non invece quadra. In italiano non si sa per quale motivo gli hanno rifatto ridire di nuovo sono del Sagittario, ma questo ve l'ho detto già, e poi adoro le bistecche, che non fa ridere, perché non è che l'essere il Sagittario ed adorare le bistecche sia in contrapposizione. E allora adesso ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone, sempre degli Houdini Roadshow, ed è Down in the City. Siamo arrivati nella parte finale di Caccia al Fotone, in compagnia di Pilo dell'Italian Subs Addicted. Allora, le tue considerazioni finali su questa serie, continuerai a vederla, continuerai a tradurla, ti sta piacendo, stai vedendo un calo dei contenuti scientifici, oppure... Ma io sicuramente continuerò a vederla, perché ogni volta che vedo una puntata sono in lacrime alla fine. Diciamo, in America ora sono poco prima della metà della seconda stagione, al sesto episodio, e in Italia sono arrivati, hanno trasmesso tutta la prima stagione su Stile, credo che presto arriverà anche in Chiaro. Però comunque io consiglio di guardarla in originale, perché fa ridere almeno il triplo di quello che fa ridere in italiano. Ci vuoi ricordare il sito di Italian Subs Addicted? Sì, l'indirizzo è appunto www.italiansubs.net. Noi ci occupiamo non solo di Big Bang Theory, ma di altre serie TV. In totale sono 150. Quindi se volete scoprire nuove serie e non ancora arrivate in Italia, visitate il sito e sicuramente anche voi sarete da quel momento in poi addicted come noi. We'll be right back. Noi ci ritroviamo sabato prossimo, stessa ora, stessa radio, stesso fotone. E buona scienza a tutti.